Come a sto giro, perché le altre volte non suonano bene, secondo te, secondo te. Ma ti fai i cazzi tuoi, mai mai è. Non vedi tu, sto qui, e che tu vuoi, papà tuo. Thank you.